7. Ascolta e controlla. 1. Comprerai quel quadro? No, non è un bel quadro. 2. Aprirai il regalo? Quale regalo? Quel regalo lì? 3. Hai fotografato il palazzo? No, perché secondo me non è un bel palazzo. 4. Hanno visitato il museo MoMA? Sì, in quel museo hanno passato molto tempo. 5. Da dove vengono quegli occhiali? Dalla Francia. 6. Non è un bell'albergo il tuo? No, non mi piace per niente. 7. Funziona bene quell'orologio? Sì, spacca il secondo.